Di Giovanni Minoli, il faccia a faccia. Padre Giulio Albanese, missionario comboniano, giornalista romano, 56 anni, ha vissuto in Africa per molti anni, ha diretto New People Media Center di Nairobi, ha fondato la MISNA, collabora con varie testate tra cui Avvenire Vita, oggi dirige Popoli e Missioni ed è membro del Comitato per Interventi Caritativi a favore del Terzo Mondo della CEI. Autore di diversi libri, ha accompagnato il Papa nel viaggio in Africa ed era sull'aereo papale quando Papa Bergoglio, tra le altre cose, ha detto: ma io ringrazio Dio che non ci sia la Lucrezia Borgia. Padre Albanese, una battuta quella del Papa, però molto dolorosa. Non v'è dubbio. Hai ereditato un vero disastro, una curia disastrata. La prima cosa è chiederlo a lui. Senta, già Ratzinger, che Francesco ha evocato, aveva iniziato la sua battaglia però predicando la Via Crucis prima di essere Papa. 13 giorni prima della morte di San Giovanni Paolo II, in quel Via Crucis, l'allora cardinale Ratzinger, che guidava il Via Crucis, ha parlato delle sporcizie della Chiesa. Ma lui ha denunziato quello, è il primo. Ecco. Dopo quel Venerdì Santo, Ratzinger è stato eletto Papa, ma ha continuato a parlare di lupi intorno a lui. Ma chi erano i lupi intorno a Ratzinger? Francamente non ne ho idea, anche perché non vivo in Vaticano. Ne ho sentite parecchie. Certamente ha sofferto Papa Ratzinger. Ecco, ma sono gli stessi lupi che sono intorno a Papa Bergoglio? No? Non sono in grado di dirlo. Certamente diciamo che c'è della zizzania. Senta, ma il potere corruttivo dei soldi è davvero il cancro del Vaticano? Ma non solo del Vaticano, io direi delle comunità cristiane, ma direi della società civile in senso lato. È una grande tentazione. Senta, anche lei, padre Albanese, come Bergoglio, viene dalle periferie del mondo. Arrivare in Vaticano è davvero sconvolgente, eh? Ma diciamo che io sono nato vicino al Vaticano, quindi il cupolone l'ho sempre visto. Devo dire che mi ha sempre affascinato come ambiente e comunque dobbiamo stare molto attenti, non dobbiamo buttare, si dice in Africa, il bambino con l'acqua sporca. In Vaticano ci sono anche delle persone sante. Senta, è interessante però vedere come durante il sinodo sulla famiglia i padri più legati alla tradizione siano stati proprio quelli della Chiesa Nuova Africana. Ma perché? Ma direi che per certi versi questo è fisiologico. Si tratta di giovani chiese, per certi versi c'è una insicurezza istintiva. È vero che qualcuno mi ha raccontato in Africa, mi ha detto, mi ha confessato che certi vescovi africani sono più romani del Papa, ma questa è solo una battuta. Quindi non è sorprendente secondo lei questo fatto? Non è sorprendente, anche se da questo punto di vista hanno bisogno di incoraggiamento e per certi versi la responsabilità è anche nostra, di noi missionari, che forse, come dire, abbiamo troppo enfatizzato l'aspetto dottrinale a volte, trascurando quello pastorale. Ecco, perché per esempio una chiesa che viene da un mondo dove è praticata la poligamia probabilmente cerca delle ragioni invece molto dure, molto chiare per giustificare la sua adesione alla Chiesa Romana. Da un punto di vista evangelico, alla luce anche di quello che leggiamo nei documenti del Concilio Vaticano II, la sfida oggi, guardando soprattutto alle giovani chiese, è legata all'inculturazione. Ecco, ma padre Albanese, per chi, ma praticare il celibato per chi viene da una cultura così diversa è più difficile? Ma non dimentichiamo che l'Occidente, le chiese occidentali sono arrivate al celibato così come noi lo intendiamo gradualmente nel tempo. Dunque ha una forte dimensione valoriale, ma da questo punto di vista credo che sia importante anche praticare misericordia. Ma tenere insieme la necessità di combattere l'AIDS in Africa e il divieto di usare preservativi è un problema serissimo. La Chiesa africana nella prassi ha delle aperture, eh? Devo dire che c'è un dibattito, il dibattito direi ancora aperto. Quindi Come sulla comunione ai divorziati, il Papa si affida molto anche su questo al rapporto diretto tra i preti e il popolo di Dio, così? Diciamo che quando noi parliamo di quelle che sono le sfide di tipo pastorale, ecco, dobbiamo sempre tenere presente che ciò che conta innanzitutto e soprattutto è la congiunzione tra spirito e vita. Dunque, se da una parte vi è una dimensione valoriale, sacrosanta, dall'altra bisogna tener conto le situazioni concrete in cui si trova la Quindi nostra gente. Quindi c'è un bisogno di incarnare la Chiesa, farla partecipe della realtà della vita di oggi. Soprattutto tenere presente una cosa, che 2000 anni fa nostro Signore Gesù Cristo non è venuto per i sani ma per i malati, non è venuto per i giusti ma per i peccatori. Senta, padre Albanese, lei era con il Papa nel suo viaggio in Africa. Il Papa ha stupito tutti per la semplicità del suo comportamento. Profezia o follia? Papa Francesco è un personaggio straordinario, è davvero un pastore nel vero senso della parola. Ha una grande capacità di parlare al cuore della gente e soprattutto credo che il carisma più grande è quello di far sì che in una maniera o nell'altra quello che è scritto nella parola, il deposito dottrinale, possa in una maniera o nell'altra manifestarsi nell'agorà, nella piazza. Il vero problema della Chiesa del nostro tempo, per certi versi, è un po' la schizofrenia. Da una parte c'è la gente che viene in chiesa, celebra i santi misteri, va a messa, e dall'altra però c'è la piazza, l'agorà, c'è il mondo che sembra andarsene per conto proprio. Papa Francesco vuole evitare che ci sia questo cortocircuito. In altre parole, davvero parafrasando Pietro, dobbiamo essere capaci di dare ragione della speranza che è nei nostri cuori. Senta, lei che conosce bene l'Africa e le sue tensioni, il Papa ha corso rischi veri e nascosti oppure no? È stato un viaggio preparato con molta cura. Ho visto che sia da parte della polizia come anche delle forze dell'ordine e dell'esercito, sia in Kenya come anche in Uganda e nella Repubblica Centroafricana, diciamo, c'è stata grande serietà. Dal mio punto di vista il Papa non ha corso rischi, per carità poi tutto è imprevedibile. Naturalmente. Ciò che però a mio avviso va davvero elogiato è stato il coraggio comunque di Papa Francesco, anche perché erano molti, soprattutto certi detrattori, che tendevano a scoraggiarlo. Senta, ma aprire il Giubileo della Misericordia partendo dall'Africa perché? È fondamentale, è il mondo capovolto di Dio. In fondo, a pensarci bene, nostro Signore Gesù Cristo 2000 anni fa ha iniziato la sua missione proprio in Galilea, in periferia. E quindi lo sforzo di Papa Francesco è quello di affermare questo decentramento, di far sì che la Chiesa torni alle proprie origini. Senta, ma a differenza di Wojtyla, Papa Francesco non parla bene le lingue. È un handicap in questi viaggi pastorali? Io non l'ho visto assolutamente, come dire, in situazioni di disagio. Comunica con grande spontaneità, ha un cuore grande come una capanna, mi ha detto un missionario, e in ogni caso devo dire che se l'è cavata egregiamente nel corso di questo pellegrinaggio africano, anche con l'inglese e direi anche col francese. Vabbè, insomma non li parla proprio benissimo. Beh, diciamo che ci sono stati papi più fluenti. Insomma. Padre Albanese, senta, in Africa le stime di crescita del PIL sono di circa del 5% l'anno. Ma questa crescita corrisponde a un miglioramento della distribuzione della ricchezza? Alla luce della mia esperienza assolutamente no. Anzi, paradossalmente stiamo andando indietro e dico subito per quale motivo. Anche se cresce del 5% il PIL? Sì, perché il problema è che il valore assoluto del PIL africano è bassissimo. Prendiamo un paese come il Ghana. Il Ghana ha un PIL in cifre assoluto di circa 50 miliardi di dollari. Ora, se uno tiene presente che il PIL della regione Lombardia è 350 miliardi di dollari, certo, capisce bene che insomma il cammino è ancora tutto in salita. Ma quali sono le caratteristiche principali della Chiesa africana? Diciamo che la Chiesa africana è una Chiesa che è collocata in contesti molto complessi. Sono paesi che hanno grandissime potenzialità, pensiamo a quelle che sono le commodities, le ricchezze naturali. Di fatto però sono paesi questi in cui l'integrazione dal punto di vista statuale è molto difficile, spesso c'è un'etnia che prevale sull'altra. Da questo punto di vista le chiese vengono fortemente condizionate da quello che è il contesto locale. Ecco, dal punto di vista del potere, quasi tutti i paesi dell'Africa, sì, lotta tribale, ma sono governati da forme diverse di autoritarismo. La chiesa li combatte o si allea? Io direi che le chiese, nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto il mondo missionario, ha preso le difese della società civile, ci mancherebbe. E dov'è che lo combatte di più? Ma guardi, io penso a tutti quelli che sono gli scenari dove in questo momento davvero vengono versati fiumi di sangue. Penso per esempio alla Repubblica Centrafricana che ha appena visitato Papa Francesco. Ma è utopistico pensare a un'Africa democratica? Ma io credo che dobbiamo stare attenti a non porci in un atteggiamento paternalistico di giudizio, no? Noi abbiamo una concezione della democrazia che è molto europea. Ora io credo che l'Africa debba elaborare un suo modello. Una sua strada. Senta, però, padre Albanese, i cristiani sono perseguitati nel mondo, 150 milioni di cristiani si dice siano perseguitati, moltissime chiese sono bruciate. Ma perché né il Vaticano né l'Occidente reagiscono? Beh, io direi che non è assolutamente vero. No, io devo dire, ci sono stati pronunciamenti in più circostanze in difesa dei cristiani, ci mancherebbe. C'è però anche una preoccupazione, una duplice preoccupazione da parte della Chiesa a livello istituzionale, a livello di Santa Sede. Dobbiamo stare molto attenti perché in molti casi noi assistiamo ad una strumentalizzazione della religione per fini eversivi. Attenzione. Anche perché molte volte i cristiani vengono colpiti, penso per esempio alla Somalia, penso più che alla Somalia, al Kenya, al caso di Garissa, per non parlare poi dei famigerati Boko Haram in Nigeria. Non dimentichiamo che i cristiani vengono colpiti perché i jihadisti sanno bene che in questo modo bucano lo schermo. Da una parte quell'azione terroristica ha un grosso riverbero a livello internazionale e poi attenzione, sono convinti che colpendo obiettivi cristiani in fondo loro colpiscono l'Occidente. Tra l'altro dimenticando che il cristianesimo non è nato in Occidente ma è nato in Palestina, appunto, in Oriente, in Medio Oriente. Ecco, molti leader politici pensano che di fronte alle migrazioni gli africani vadano aiutati a casa loro, è giusto? Ma veramente questo l'hanno sempre pensato i missionari. I missionari partono per aiutare le giovani chiese, le società locali a crescere, a fare infatti, un percorso di sviluppo. Il motto del suo santo fondatore, Daniele Comboni, è salvare l'Africa con l'Africa. Cosa vuol dire? Questo significa andare al di là di quella tentazione che spesso è presente anche nelle nostre comunità, quella del paternalismo, quella di considerarci sempre comunque benefattori di fronte a tanta umanità dolente. Penso al ricco Epulone, no? Che se ne stava bello spaparazzato di fronte a una tavola imbandita e si sentiva con la coscienza a posto perché faceva cadere delle briciole da tavola. Purtroppo oggi le azioni solidali da parte anche di certi organismi di solidarietà sono proprio di questo tipo, all'insegna della carità pelosa. Invece bisogna capire che le Afriche, parlo sempre al plurale perché è un continente che è tre volte l'Europa, non dimentichiamolo, non sanno che farsene della nostra carità pelosa, invocano giustizia. Ma lei quando ha capito che Comboni era il suo santo? Ma quando ho conosciuto tanti anni fa un mio confratello, padre Alessandro Zanotelli, che allora era direttore di Nigrizia, un uomo straordinario con una... È lui che l'ha convertito, insomma, che l'ha convinto. Sì, che mi ha fatto cadere da cavallo, diciamo così. Ma è stata una vocazione facile o sofferta? Ma io credo che tutte le vocazioni debbano essere sofferte, nel senso che ci sono dei processi di maturazione, anche perché le persone poi cambiano. E diciamo che quella idealità dei primi anni, non voglio dire che sia sfumata, però chiaramente poi confrontandosi con situazioni diverse, via discorrendo, uno deve sempre, come dire, rinascere, rimettersi in discussione. Credo che questo sia fondamentale, anche perché poi la vocazione deve diventare missione. Azione, certo. Ecco, però i missionari sono sempre meno. Perché, secondo lei? Le ragioni sono molteplici. Un po' perché le nostre chiese in questi anni, come dire, si sono eccessivamente preoccupate, penso non solo a quelle europee, penso anche alle nostre diocesi italiane, si sono preoccupate dal mio punto di vista eccessivamente di quello che è il fenomeno della scristianizzazione a casa nostra, dimenticando che invece essere cattolici significa avere un respiro universale. In fondo il cattolicesimo è la globalizzazione perspicace e intelligente di Dio. Poi c'è un'altra ragione, indubbiamente ci sono stati condizionamenti anche legati al fatto che molte volte le nostre comunità cristiane non sono state all'altezza della loro vocazione, dunque c'è stato un deficit di testimonianza. Ma lei ha avuto l'incarico di andare in giro a raccontare la Chiesa di Francesco, come fa quando il Vaticano è descritto come lo descrive Francesco stesso? Ma insomma, io dico, stiamo attenti a non fare di tutte le erbe un fascio. A me capita molto spesso di andare in giro per l'Italia, di andare anche all'estero e di incontrare tante comunità cristiane. Papa Francesco gode della stima, della simpatia di tantissima gente. Chiaramente c'è bisogno di portare avanti questa riforma, però non dimentichiamo che comunque in ogni caso c'è tanto bene all'interno della nostra comunità ecclesiale. Senta, ma qui da noi, per esempio, qui a Mix 24, Giuseppe Profiti, che è l'ex presidente del Bambin Gesù, ha raccontato le ragioni del suo intervento a favore dell'attico del Cardinal Bertone. Senta qua. La ristrutturazione dell'appartamento del Cardinal Bertone l'ha pagata lei con i soldi della fondazione del Bambin Gesù? Sì. Perché? Perché lì avremmo realizzato nel successivo triennio le maggiori iniziative della fondazione, quelle con il più elevato ritorno economico. Cioè? Lo rifarebbe, insomma, sì. Certo che lo rifarei, solo per darle un'indicazione, nel 2013 gli eventi per la fondazione che hanno visto la partecipazione del segretario di Stato hanno determinato nell'anno successivo un incremento della raccolta fondi di oltre il 70%, siamo passati da una raccolta di poco più di 3 milioni ad oltre 5 milioni all'anno, certo che lo rifarei. Quindi con un appartamento di pubblica relazione in certo senso, per fare marketing strategico? Assolutamente sì. Che effetto le fanno queste parole? Mi viene in mente quello che leggiamo nel Vangelo. Non di solo pane vive l'uomo. Senta, anche Papa Francesco, però, a proposito delle scelte dei suoi collaboratori che hanno divulgato i documenti del Vaticano, ha detto: mi sono sbagliato. Perché queste due nomine? Come è stato possibile che nel processo di riforma che lei ha avviato due persone di questo tipo siano potute entrare in una commissione con la COSEA? Crede di aver fatto un errore? Io credo che è stato fatto un errore. Anche i papi sbagliano, insomma. Sì, Papa Francesco è molto sincero. Tra l'altro dice ad alta voce: anch'io sono peccatore. Certo, quindi è difficile gestire in realtà una macchina come il Vaticano. Eh sì. Anche per chi ha le migliori intenzioni. Cioè non bastano le migliori intenzioni. Bisogna scegliere bene le persone. Sì, bisogna anche pregare molto, bisogna chiedere proprio il dono dello Spirito Santo, perché qui non voglio come dire, sembrarvi troppo fratesco nell'esposizione, ma indubbiamente se uno esclude il discorso di fede non va da nessuna parte. In questo ragionamento. Ecco, ma Ratzinger ha iniziato, non ce l'ha fatta. Francesco ce la farà? Ma io direi che Ratzinger a modo suo ce l'ha fatta, nel senso che comunque ha sollevato la questione e poi le sue dimissioni comunque rimangono nella storia della Chiesa un gesto di grande carità e un gesto profetico. Ma Padre Albanese, anche i giornalisti che hanno avuto i documenti e li hanno pubblicati sono sotto processo, ma sembra normale? Ma guardi, per quello che io ho letto da parte del Tribunale Vaticano, non c'è niente da eccepire nei confronti del fatto che questi due giornalisti abbiano pubblicato questi due libri. Tra l'altro, Nuzzi, se non vado errato, già ai tempi di Papa Benedetto aveva pubblicato un libro e non c'era stata nessuna presa di posizione da parte della magistratura vaticana. Quello che viene contestato ai due giornalisti è invece il fatto che, come dire, siano entrati in possesso di questi materiali in modo illecito. Ah, cioè che siano... e quindi... Ma io dico... Lei è un giornalista, ha fondato un'agenzia di stampa, come l'abbiamo detto, ma non è il dovere di un giornalista pubblicare le notizie che hanno? Guardi, io sono fiducioso, io sono convinto che questi giornalisti nel corso di questo processo dimostreranno la loro innocenza, la loro estraneità ai fatti loro imputati. Una cosa è certa, ecco, solo su una cosa sento davvero istintivamente di dovermi esprimere, anche perché, tengo a precisarlo, io sono il primo come giornalista a credere fino in fondo nella libertà di stampa, ci mancherebbe, guai a lasciare la notizia nel cassetto. Il discorso è un altro, quando loro dicono che hanno pubblicato questi libri, questi materiali, questi documenti per aiutare il Papa, beh, me lo lasci dire, io ho dei seri dubbi. Per quale motivo? Perché innanzitutto Papa Francesco era ben informato e l'ha detto a chiare lettere. Dopodiché, inutile nasconderselo, in questo modo hanno messo in difficoltà il Santo Padre, peraltro gettando discredito, lo si voglia o no, sulla Chiesa istituzione, una Chiesa che comunque Papa Francesco rappresenta. Certo. Senta, il Papa proprio in Africa ha aperto il Giubileo della Misericordia. Dov'è la misericordia in questa vicenda? Guardi, la misericordia sta nel fatto che Dio scrive comunque dritto sulle righe storte, quindi io credo che il futuro è aperto comunque alla speranza. L'apertura del Giubileo della Misericordia coincide con i fatti di Parigi, con le reazioni belliche di Hollande, Putin, Cameron, cioè la guerra a pezzi preconizzata da Papa Bergoglio sta diventando guerra. Sì, in effetti mi viene in mente una vecchia pellicola di Stanley Kramer. Viviamo davvero in un pazzo mondo. Perché il paradosso è proprio questo. Da una parte si afferma la globalizzazione dei mercati, però di fatto questo mondo è parcellizzato, è un mondo diviso, è un mondo in cui è evidente sempre più l'esclusione sociale, la divisione, la forbice tra ricchi e poveri. Ma l'Occidente ha delle colpe specifiche rispetto a quello che è successo a Parigi e all'avanzata dell'ISIS? Guardi, a me vengono sempre i nervi quando ci si divide in questo paese nel dibattito tra Guelfi e Ghibellini. No? Allora io credo che qui dobbiamo stare con i piedi per terra. Ora, io sono il primo a dire che i jihadisti sono criminali, banditi, che esiste un problema di integrazione nel mondo islamico, di dialogo, di confronto, di accettazione della sfida della modernità. Però dobbiamo avere l'onestà intellettuale, noi occidentali, di cospargerci il capo di cenere. Perché, voglio dire, abbiamo concluso nel passato, in un recente passato, la cosiddetta epopea coloniale, ma ne abbiamo aperta un'altra, quella neocoloniale. E io credo che dovremmo davvero metterci in discussione. Cioè, in realtà chi ci guadagna con l'ISIS? Guardi, è chiaro che dietro le quinte ci sono organizzazioni malavitose, è chiaro che ci sono trafficanti. Ma io penso solo al traffico delle armi, ma per non parlare del traffico illecito, per esempio, di idrocarburi. Ma possiamo dire che questo è il primo giubileo di guerra dell'epoca contemporanea? Beh, diciamo che questo è un giubileo particolare, perché forse mai come oggi sul palcoscenico della storia stanno avvenendo così tanti cambiamenti rapidamente, e c'è sempre la grande tentazione di risolvere i problemi con le armi. Ma padre Albanese, era meglio il mondo bipolare? Io sono nato durante la Guerra Fredda e devo dire che quello era un contesto algido, si guardava sempre all'altro con grande diffidenza. No? Devo dire, ho sempre salutato con entusiasmo il crollo del muro di Berlino, però devo dire che quando è crollato il muro di Berlino avevo delle attese che non si sono poi così realizzate. Ecco, ma l'Europa ci ha messo centinaia di anni di guerre, di morti, per scindere lo Stato dalla Chiesa. Lei pensa che lo possa fare anche l'Islam? Guardi, ci sono stati dei tentativi nel mondo islamico che noi occidentali abbiamo la grande responsabilità di aver addirittura ostacolato. Mi viene in mente il leader dei fratelli repubblicani del Sudan, Mahmoud Mohamed Tah, il quale diceva che bisognava scindere l'aspetto religioso, spirituale da quello politico. In sostanza gli diceva il mondo islamico deve smetterlo di essere una teocrazia. Bene, è stato fatto fuori nel 1985 dall'allora presidente Niemeyer. Erano i tempi della guerra fredda e il Sudan a quei tempi era sotto l'influenza degli Stati Uniti d'America. L'Occidente in quella circostanza non ha mosso un dito per difendere quel poveretto. Ma il cardinale Parolin ha detto che i musulmani possono essere coinvolti in questo anno santo, come? Ma veramente questo è previsto proprio dalla bolla di indizione redatta dal Santo Padre. Dialogo con le grandi religioni monoteiste, in particolare con il mondo islamico, ma anche con i nostri fratelli ebrei. Ma nei giorni scorsi, dopo i fatti di Parigi, la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Khamenei, ha scritto una lettera ai giovani occidentali, ha indicato il terrorismo come il dolore comune tra noi e voi. Ma non è un gesto molto importante sulla linea? È un qualcosa di meraviglioso che ci fa capire che è possibile un'intesa con l'Oriente. Ma perché se ne è parlato così poco? Perché dobbiamo dire che culturalmente c'è qualcuno che getta benzina sul fuoco qui in Italia, soprattutto chi opera nel mondo della comunicazione. Ma chi ha interesse a mantenere l'idea che quella in atto è uno scontro di civiltà e non solo una guerra contro dei terroristi sanguinari? Ma guardi che c'è tutto un movimento di pensiero che, tornando indietro con la moviola della storia, risale proprio, come dire, coincide con il crollo del muro di Berlino, perché è chiaro che quando è crollato quel muro, è crollata l'Unione Sovietica, non c'era più di fronte quell'antagonista, inutile nasconderselo, bisognava trovarne un altro. E io credo che qualcuno da questo punto di vista ha fatto sì che il mondo islamico si presentasse all'Occidente con quella visione, con quella maschera atroce, che sono quelle del jihadismo. Però attenzione, guai a fare di tutte le erbe un fascio, perché nel mondo islamico ci sono delle realtà dal punto di vista valoriali straordinarie. Io penso per esempio al sufismo. Grazie padre Albanese. Grazie a voi. Mix 24, i gialli della storia. Italiani, l'auspicata svolta politica, il lungamente atteso colpo di Stato ha avuto luogo.

La paura del comunismo, questo secondo Monti il motivo per cui Borghese avrebbe progettato e ideato il colpo di Stato, un progetto da attuarsi con l'aiuto delle forze armate coinvolgendo civili e militari. Ma quando esattamente gli italiani vengono a conoscenza per la prima volta di essere stati sul punto di diventare una dittatura militare? Dalla notte di quel fantomatico golpe sono passati più di 3 mesi. Mercoledì 17 marzo 1971, ore 15 circa. Il quotidiano romano Paese Sera titola: piano eversivo contro la Repubblica, scoperto complotto di estrema destra. La gravissima notizia, sulla quale si è mantenuto per giorni un rigoroso e comprensibile riserbo, è trapelata stamani negli ambienti giudiziari. Quello stesso 17 marzo, di fronte a una notizia così clamorosa, il Parlamento sospende le sedute e chiama il ministro degli interni, Franco Restivo, a dare conto dell'indagine della polizia e della magistratura. In realtà, secondo lui, non è successo nulla. Intanto dal Palazzo di Giustizia partono i primi arresti. L'accusa è insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Gli accusati sono l'ex maggiore dell'esercito Mario Rosa, segretario organizzativo del Fronte Nazionale, quello capeggiato da Borghese. L'ex tenente dei paracadutisti, Sandro Saccucci, segretario della sezione romana dell'associazione paracadutisti, e il costruttore edile Remo Orlandini. Il giorno dopo è la volta di Junio Valerio Borghese, ma il principe nero, irreperibile, è ormai diventato una primula rossa. Junio Valerio Borghese dunque ormai è irreperibile, quello che la polizia e la magistratura indicano come il capo di questa cospirazione, il leader della formazione di estrema destra Fronte Nazionale, è a tutti gli effetti un latitante. Ma allora chi è Junio Valerio Borghese? Quali sono i progetti del Fronte Nazionale? A spiegarlo proprio lui, nell'intervista rilasciata sabato 5 dicembre del 70, cioè a meno di 48 ore dalla notte del presunto golpe, l'intervista concessa a Giampaolo Pansa, comparsa sulla stampa solo il 9 dicembre del 70. Quello che stiamo tentando di fare è creare un centro di potere su scala nazionale, basato sulle strutture di quel tipo di nazione che noi vorremmo vedere attuato. Forse occorrerà un colpetto, ma credo che non occorrerà nemmeno il colpetto. Noi ci verremo ad inserire, direi senza colpo ferire, in quel vuoto che già esiste fin da ora. Oggi la classe politica si è arresa totalmente ai comunisti. Il dilemma è Roma o Mosca? Voi preferite essere dominati da Mosca? E allora scegliete il PC. Al centro della visione politica di Borghese dunque c'è un anticomunismo viscerale, ma anche dai toni cupi e violenti, e quegli stessi toni cupi e violenti si ritrovano anche nell'ultima intervista rilasciata da Borghese durante la sua latitanza alla televisione svizzera. Oggi combatto contro degli italiani. Oggi parlo contro degli italiani. Quando le dico che i nostri nemici più pericolosi in Italia sono i comunisti. Oggi combatto con il Fronte Nazionale. Occupo perciò un posto di combattimento alla testa di questo movimento, di questa associazione di italiani, che hanno una consegna di lotta molto chiara contro il caos, contro il disordine, contro l'antinazione, contro il comunismo. Parole dure, violente, minacciose, ma l'anticomunismo di Borghese del resto viene da lontano. Junio Valerio Scipione Alfredo Ghezzo dei Principi Borghese nasce a Roma il 6 giugno del 1906. La sua è una delle più importanti famiglie della storia italiana. I Borghese hanno dato alla Chiesa un papa, si sono imparentati con i Bonaparte, hanno espresso uomini di governo e diplomatici nell'Italia liberale. La sua carriera sarà folgorante. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Borghese è al comando del sommergibile Chiré, con cui si distingue in imprese memorabili che ne faranno un mito non solo della nostra Marina Militare. Il 19 dicembre 1941, Borghese affonda 2 corazzate inglesi e un incrociatore. dei pochi veri successi italiani nel corso del conflitto. Ma il giorno che segnerà per sempre la vita di Borghese è l'8 settembre. Nell'Italia della resa e della disfatta, il principe sceglie di restare a fianco dell'alleato nazista contro il traditore Badoglio. Con i volontari della decima MAS, di cui assume il comando, Borghese continua a combattere contro gli anglo-americani che avanzano da sud. Le formazioni di Borghese sono coinvolte nella guerra civile. La decima verrà accusata di efferatezze per le quali, a liberazione avvenuta, il suo comandante sarà chiamato a rispondere in tribunale. Documenti americani desecretati solo nel 2000 provano la collaborazione di Borghese e di uomini della decima con gli americani già prima del 25 aprile 1945. Dopo la liberazione sarà proprio l'intervento personale di James Jesus Angleton, responsabile del controspionaggio dell'OSS, da cui poi nascerà la CIA, a salvare la vita a Borghese. Processato fra il 1947 e il 1949 per collaborazionismo e guerra antipartigiana, grazie alle pressioni americane oggi note sulla procura militare italiana, Borghese viene condannato ma ottiene le attenuanti. Dopo pochi anni di prigione è in libertà. Ma nell'Italia repubblicana e antifascista, Borghese resta comunque un esule a disagio. La via della politica di partito con il Movimento Sociale, di cui diventa presidente onorario, si rivela infatti un fallimento. Non condivide tutte le scelte politicanti del movimento politico. Lui è un uomo militare. Un militare dunque, secondo suo nipote Valerio Borghese Junior, un militare a disagio di fronte alla complessità della nascita della democrazia in Italia. A Mix 24 stiamo raccontando quel tentativo di attacco allo Stato democratico avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 1970. Torniamo subito dopo la viabilità. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Mix 24, i gialli della storia. Bentornati a Mix 24 con la storia del golpe Borghese, quel tentativo di colpo di Stato dell'8 dicembre del 70. Borghese allora decide di giocare in proprio e fonda il Fronte Nazionale. È il 1968. Nell'Italia scossa dalla rivolta studentesca e dalle lotte operaie, Borghese crede che il Fronte Nazionale sia lo strumento giusto nel momento giusto. Con il Fronte Nazionale, Borghese tenta di essere il collante e il riferimento dei movimenti della destra radicale, che non si riconoscono nella politica del Movimento Sociale, che giudicano troppo moderata. Falliti i contatti con Ordine Nuovo di Pino Rauti, che rientra nei ranghi del Movimento Sociale, l'alleato principale di Borghese diventa proprio Avanguardia Nazionale. Ma che cos'era davvero Avanguardia Nazionale? L'Avanguardia era un movimento dove esistevano militanti ed aderenti, dove noi avevamo anche lì sognato, se lei mi permette, delle strutture di categoria parallele che non riuscimmo a fare se non in pochissimi casi e molto marginalmente. Questa era l'Avanguardia. Così Stefano Delle Chiaie racconta di quelle strutture clandestine che sono tenute naturalmente sotto stretta osservazione anche dal SID, il Servizio Segreto Militare. E il SID si occupa anche dei rapporti tra Avanguardia Nazionale e il Principe Borghese. Ma un'operazione così ambiziosa da chi è stata finanziata? Anche di questo parlano le informative del SID e la data è l'11 maggio 1969. 11 maggio 1969. Il comandante Borghese, nel corso di una riunione con esponenti del mondo imprenditoriale genovese, ha deciso la costituzione di gruppi di salute pubblica per contrastare, anche con l'uso delle armi, l'ascesa al potere del PC. La base di questa nota del SID è in un rapporto dei carabinieri. Il 12 aprile ultimo scorso, a Genova, in una villa appartata a Picco sul Mare, sita in via Capo Santa Chiara 39, il noto comandante Valerio Borghese si è incontrato con l'armatore Cameli Alberto, con l'avvocato Meneghini Gianni, con il presidente Lagorio Serra Gianluigi e con il proprietario della villa, l'industriale Canale Guido. E Borghese tesse la sua trama con i movimenti dell'estrema destra, con i militari, con il mondo imprenditoriale. Ma tutti quegli imprenditori che abbiamo citato, lo ricordo, sono stati assolti. Torniamo allora alle indagini del 1971. Subito dopo i primi arresti, la magistratura chiede al SID cosa sappia di Borghese, del Fronte Nazionale e del tentativo di colpo di Stato. Il 13 agosto del 71, con il codice 1303, il capo del servizio segreto militare italiano Vito Miceli scrive: quale capo del servizio informazioni della difesa riferisco. Dai controlli immediatamente disposti non emerse alcuna conferma della notizia riferita. Ogni ricerca informativa in merito svolta dal servizio ha portato all'esclusione di collusioni, connivenze o partecipazioni di ambienti o persone militari in attività di servizio. Ma né Miceli né nessun altro al SID trasmettono alla magistratura tutte le informazioni che abbiamo sentito e che invece parlano chiaramente di Borghese, dei suoi contatti, del suo progetto di colpo di Stato. Il 25 febbraio del 72 Remo Orlandini, Sandro Saccucci e tutti gli altri imputati vengono scarcerati. Poi il 1 dicembre del 73 viene revocato il mandato d'arresto di Borghese. La notte dell'8 dicembre del 70, insomma, non sarebbe successo assolutamente nulla. Poi però nel 74 un clamoroso colpo di scena riapre d'improvviso il caso. A 2 anni dalla fine della prima inchiesta sul golpe Borghese, l'autorità giudiziaria riceve un voluminoso dossier. A inviarlo è il responsabile politico del SID, il ministro della difesa Giulio Andreotti. Il dossier è diviso in 3 parti. La prima parte si occupa del golpe Borghese vero e proprio e descrive le fasi di preparazione del piano eversivo e gli obiettivi dei cospiratori. Questo dossier, lo abbiamo sentito, viene consegnato ai magistrati da Giulio Andreotti, ministro della difesa. E infatti quel dossier è stato preparato dal SID, il servizio segreto militare. Ma a fornire questo dossier, questo è il punto importante, ad Andreotti non è stato Vito Miceli, capo del SID, ma è stato il numero 2 del servizio segreto, il generale Gianadelio Maletti, capo del controspionaggio militare, come racconta lui stesso. Fece portare avanti una serie di indagini, di accertamenti, di contatti, che poi produssero il famoso rapporto, l'unico rapporto nel quale si denunciassero fatti, persone, avvenimenti e località, eccetera, con precisione. Non c'è stata alcuna sollecitazione politica, non c'è stata alcuna sollecitazione militare superiore. È un'inchiesta delicatissima, talmente delicata che Maletti ne tiene all'oscuro lo stesso capo del SID, il generale Vito Miceli. Nel 74, lo abbiamo sentito, un colpo di scena. La magistratura riceve un dossier dall'allora ministro della difesa, Giulio Andreotti. A fornire il dossier ad Andreotti però è il numero 2 del SID, non il capo Vito Miceli, ma il generale Gianadelio Maletti, che si è avvalso per le indagini della collaborazione di un capitano dei carabinieri, Antonio La Bruna. Così racconta Guido Salvini, magistrato della Procura di Milano. Il capitano La Bruna è un uomo estremamente abile nell'acquisire informazioni, cioè ottenere da coloro che stavano congiurando da anni per tentativi di golpe, ottenere tutte le informazioni su quello che stavano facendo e registrarle durante colloqui in cui i suoi interlocutori si fidavano di lui come se fosse un complice. In particolare La Bruna registra le dichiarazioni del costruttore Remo Orlandini, che la magistratura nel 71 aveva indicato come una delle menti operative del colpo di Stato. Remo Orlandini era un individuo che apparentemente sembrava molto preparato dal punto di vista tecnico, militare. Lui faceva un po' il coordinatore attraverso il principe e i suoi diretti collaboratori e altri personaggi all'esterno. Questo dunque è Remo Orlandini nelle parole del nostro testimone diretto Adriano Monti. Su Radio 24 stiamo ripercorrendo l'inquietante inchiesta sul golpe Borghese, il tentativo di colpo di Stato avvenuto l'8 dicembre del 70. Continuiamo subito dopo la pubblicità.